Su info salute e società punto radio, a cura di Soroptimist International Club di Treviso, in collaborazione con l'azienda ULS numero 2 marca trevigiana. Eccoci pronti per l'ultimo appuntamento con SoInfo, la rubrica radiofonica settimanale che vi ha accompagnato in questi mesi nell'approfondimento dei temi della salute della società, osservandoli con sguardo plurale, quello delle donne, dei bambini e delle bambine. Concludiamo la programmazione e la trattazione del tema che abbiamo affrontato nell'ultimo mese, quello della menopausa, con un focus particolarmente importante: la prevenzione durante la menopausa, di cui ci parla ora il dottor Enrico Busato, primario dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Per quanto riguarda la prevenzione, possiamo fare una distinzione di prevenzione primaria e secondaria. Stiamo parlando di prevenzione della patologia oncologica nel periodo della menopausa. La prevenzione primaria consiste nell'adottare stili di vita e abitudini che sono in grado di abbassare il rischio di malattia. Tra questi, quali possiamo inserire? Ecco, di sicuro la sedentarietà gioca un ruolo negativo, come lo gioca l'obesità, il fumo e l'alcol e una scorretta alimentazione. Lavorare su questi cambiamenti di abitudini può comportare la riduzione anche del rischio oncologico. Non dobbiamo poi trascurare la prevenzione secondaria, su cui noi come persone, con la donna, non agisce direttamente, ma la partecipazione a quelli che sono gli screening che vengono offerti dal sistema sanitario è estremamente importante. Il Pap test, che viene effettuato tra i 25 e i 64 anni, la mammografia effettuata tra 50 e 69 anni e la ricerca del sangue occulto nelle feci tra i 50 e i 75 anni possono determinare una corretta diagnosi molto iniziale di una patologia che può in questo modo far sì che la donna esegua un iter diagnostico e successivamente eventualmente terapeutico in maniera tale da evitare che la malattia possa determinare delle conseguenze gravi tali, ecco, per i quali anche poi gli interventi e le eventuali terapie successive possono essere evitate. E soprattutto, ecco, quello su cui vorrei puntare, ecco, è che è importante, ecco, che la donna prenda coscienza che alcune abitudini che può cambiarle già da subito, non solo in menopausa ma al di fuori, ecco, dall'inizio, ecco, della propria vita, ecco, devono essere già acquisite, ma se vengono modificate possono anche far sì che non si arrivi alle volte a situazioni gravi, ecco, per i quali anche gli interventi risultano poi interventi molto demolitivi e che possono determinare anche con eventuali chemioterapie o radioterapie necessarie, ecco, per affrontare la malattia, delle conseguenze sulla vita, non solo sugli aspetti, ecco, fisici, ma anche sugli aspetti psicologici importanti e gravi. Cercare quindi di evitare alcune cose risulta molto importante, e volersi bene, come dico, può essere una cosa importante e prima di tutto, ecco, per il proprio corpo. Vi ringraziamo per averci seguito in questo cammino e speriamo di cuore che le informazioni e i consigli che SoInfo ha fornito in questi mesi vi siano stati utili. Ringraziamo per i preziosi contributi tutte le esperte e gli esperti che hanno messo a vostra e nostra disposizione la loro competenza, l'USL 2 marca trevigiana per la fondamentale e preziosa collaborazione e non ultima Blu Radio Veneto che ci ha permesso di realizzare e mettere in onda questo format. Vi ricordiamo infine che le puntate possono essere tutte riascoltate nella pagina del sito di Blu Radio Veneto e saranno riproposte e commentate sulla pagina Facebook SoInfo. A risentirci dalla redazione di SoInfo e dal Soroptimist International Club di Treviso. So- verso info saluteesocieta.radio a cura di Soroptimist International Club di Treviso in collaborazione con l'azienda ULS numero 2 marca trevigiana.